Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori. Abbiamo iniziato con le note di Satisfaction, una canzone, un motivo che è particolarmente a cuore del nostro ospite, che è Giuseppe La Terza. Buongiorno La Terza. Buongiorno. Giuseppe La Terza, presidente della casa editrice che porta il suo nome, il nome della sua famiglia. Perché Satisfaction? Ma perché è legato, diciamo, alla mia infanzia o, diciamo, adolescenza. Satisfaction esce, un pezzo che esce alla fine degli anni 60. Io sono a quell'epoca ragazzo di 14-15 anni e comincio a ballare, e il ballo è stato sempre per me una passione che conservo ancora adesso. Quando posso, insieme a un gruppo di amici, organizziamo una festa e mettiamo la musica che piace a noi, appunto Satisfaction per esempio. Una musica degli anni 60, una musica appunto che ricorda la giovinezza. Comunque siamo tutti sempre giovani, così come giovane la casa editrice La Terza, anche se festeggia i 110 anni, mi sembra. Sì, l'azienda è nata nel 1885 e come una cartoleria in quel di Putignano, piccolo paese vicino a Bari, e poi a Bari, poi tipografia e libreria, e infine nel 1901 la casa editrice pubblica il suo primo libro. Quindi diciamo la parte editoriale quest'anno ha 110 anni. 110 anni, sempre della stessa famiglia, è rimasta sempre all'interno di una famiglia che ha sempre trovato tra i suoi membri una vocazione per fare libri. Sì, devo dire che, diciamo, attraverso le generazioni la famiglia si è rinnovata. Oggi accanto alla famiglia nella proprietà ci sono anche altri azionisti. Però la famiglia è sempre stata al centro, diciamo, dell'attività aziendale, e ha anche pensato questa azienda in termini di una continuità nei valori, diciamo, nella sua identità, nel pensiero critico, nell'aspetto della formazione della classe dirigente, che ci sembrano elementi importanti da continuare. Ecco, è stato il fondatore, è stato Giovanni La Terza, appunto alla fine dell'Ottocento, poi c'è stato Vito La Terza, molto molto noto. Come hanno caratterizzato queste personalità la vita della casa editrice, e qual è adesso il motivo di fondo della La Terza? Ma Giovanni ha iniziato da ragazzo, giovanissimo, autodidatta, e è andato a Napoli all'epoca, all'inizio del secolo, nel Novecento, il centro di riferimento della cultura italiana, certamente quella meridionale, da Bari, e tra le altre è andato a trovare Benedetto Croce. Benedetto Croce è stato l'ispiratore della casa editrice per molti anni, fino alla Seconda Guerra Mondiale, diciamo. Mio padre è entrato in casa editrice nei primi anni 50, ne ha assunto la direzione ed è stato un rinnovatore molto forte, per esempio nel settore della scuola, dove noi non eravamo presenti, per esempio nell'architettura, nella psicologia, nelle scienze sociali, in alcune fortunate collane come la collana delle interviste. Oggi Alessandro e mio cugino, che è l'amministratore delegato della società, ed io siamo impegnati nel cercare di mantenere fede a questa tradizione, cambiandola, rinnovandola, rendendola più, diciamo, adeguata ai nostri tempi. Quindi sempre una casa editrice molto legata alla cultura, all'approfondimento, all'economia, ai temi sociali, ai temi politici anche. Quindi una casa editrice un po' difficile, che deve cercare di farsi strada con un mercato che è un po' complesso, ma di questo forse lo vedremo dopo. Quali sono stati in questo dopoguerra i punti di svolta, diciamo così, della Terza, i punti di forza anche della casa editrice? Ah, guarda, il primo punto di svolta è stato quello del dopo Croce. Mio padre si è trovato in un momento in cui c'erano altre case editrici, in particolare Einaudi, che crescevano, il panorama culturale si articolava, e diciamo mantenere una fedeltà assoluta e, come dire, una prevalenza anche in termini quantitativi al pensiero di Croce era impossibile. E quindi ha aperto la casa editrice ad altre influenze culturali, ad altri esponenti, ad altre filoni di pensiero. Questa è la prima svolta, l'apertura Poi ci sono stati i libri tascabili, con l'Anno Universale la Terza, una fortunatissima libro di La Storia d'Italia di Max Smith, ma anche testi di grandi meridionalisti, L'Uva Puttanella di Scotellaro, il primo romanzo di Sciascia, il primo libro di Sciascia, Le Parrocchie di Re Calpetra, è pubblicato dalla casa editrice. I libri scolastici, i libri dell'impegno politico, appunto la collana delle interviste, ma anche alcune rotture. È la prima volta che De Felice parla esplicitamente di consenso al fascismo nell'intervista omonima, Colletti che rinnega il marxismo e rifonde il suo pensiero in un'intervista politica ideologica e così via. Quindi sono stati tanti momenti. L'ultimo che mi piace ricordare, perché l'ho vissuto insieme a mio padre, è un'apertura forte all'Europa con la collana europea che noi pubblicammo negli anni Ottanta, con le tante coedizioni con editori stranieri, La Storia delle Donne, La Storia dei Giovani, la collana Fare l'Europa, fatta direttamente con autori stranieri, i più importanti, prestigiosi storici europei e case editrici di altri paesi, che è una prefigurazione, diciamo così, di una piccola comunità europea del libro. Qual è stato il libro che a livello proprio di vendite commerciale ha avuto maggiore successo negli ultimi anni, negli ultimi decenni, quello che magari a sorpresa vi ha riservato maggiori soddisfazioni? Ma guardi, un piccolo libro che abbiamo pubblicato qualche anno fa e che abbiamo pubblicato, non dico per sbaglio, ma insomma non avendo certamente la sicurezza del successo, è un libro di Fernando Savater, all'epoca in Italia non era conosciuto, un filosofo spagnolo di grande capacità di scrittura, si chiamava Etica per un figlio. Mi ricordo l'edizione spagnola si chiamava Etica para Amador, perché il figlio si chiamava Amador, ma non si poteva tradurre in italiano perché sarebbe stata interpretata certo, diversamente. Certo. E quello è un libro che ha avuto una fortuna straordinaria, ripubblichiamo ogni anno, a testimonianza di come il problema dell'etica e soprattutto di trasmettere un'etica alle giovani generazioni anche nel libro è un problema molto sentito. E voi vi mantenete comunque nell'ambito della saggistica, incursioni nel romanzo non ne avete fatte? Ma guardi, noi abbiamo in realtà avuto molto positivi riscontri da una nuova collana che è iniziata qualche anno fa, che si chiama Contromano. È una collana scritta da scrittori che raccontano, diciamo, il panorama italiano, il panorama che hanno sotto gli occhi. In particolare abbiamo cominciato con libri sulle città, il libro di Culicchia su Torino, di Aldo Nove su Milano, e hanno avuto grande successo. In quel caso si tratta di una saggistica molto narrativa, molto raccontata da scrittori, quindi è un territorio un po' di confine. La collana continua, ne siamo contenti, e quindi è un po' un esperimento dentro alla casa editrice. Voi siete sempre stati a Bari, anche se adesso siete Bari e Roma, quindi è una casa editrice con due teste o c'è una forte radice pugliese? Ma la radice pugliese è fortissima e per noi molto importante. Noi ci consideriamo una casa editrice meridionale pugliese e tale vogliamo rimanere anche nell'identità. Roma è importante perché è una testa di ponte, diciamo, verso la cultura italiana, non soltanto quella universitaria, ma in generale è un punto di passaggio. È a Roma che si è sviluppata molto appunto la parte saggistica dei contatti e credo che questa duplicità, un po' costosa naturalmente in termini di tempo, di energie, ma è molto fruttuosa e molto arricchente per la casa editrice. Incontri. Buongiorno, bentornati, buona domenica ancora a quanti ci ascoltano con le note di Satisfaction. Le abbiamo spiegato nella prima parte perché Giuseppe la Terza è legato a questa canzone, è legato al ballo, è legato in fondo anche alla gioia di vivere. Riprendiamo il nostro dialogo con appunto Giuseppe la Terza, presidente della casa editrice che porta il nome della sua famiglia. Ci siamo lasciati parlando di questa divisione operativa che però è un'unità strategica tra Bari e Roma. Ecco, che cos'è, cosa vuol dire essere casa editrice adesso? Come è organizzata una casa editrice? Quanti siete? Che lavoro? Come viene diviso il lavoro? Quali sono le caratteristiche rispetto ad altre aziende di una casa editrice? Giuseppe la Terza. Ma è molto semplice, noi siamo una cinquantina più un certo numero di persone, una dozzina di persone lavorano in libreria perché anche abbiamo una libreria a Bari. E queste persone si dividono tra una parte, diciamo, amministrativa, una parte commerciale, abbiamo anche una rete di nostri uomini che vanno in giro a librerie, e una parte editoriale di promozione. La parte editoriale di promozione scolastica è a Bari, quella saggistica è a Roma. Devo dire che noi abbiamo la caratteristica di essere molto intercambiabili, cioè le persone che lavorano in casa editrice hanno una competenza specifica, ma in realtà si occupano di molte cose. Abbiamo un'informazione condivisa. Io credo, ho sempre creduto nel fatto che è importante che chi lavora sappia cosa succede nella stanza a fianco, sappia quali sono i programmi dell'azienda, condivida i suoi progetti, perché così, almeno in una dimensione come la nostra, che è una piccola dimensione, si partecipa con molta più motivazione. E la motivazione è alla base del successo, credo, della casa editrice. L'idea che tutti quelli che ci lavorano, o quasi tutti, la sentono veramente come propria, come un'azienda che non è della famiglia La Terza, ma la famiglia La Terza è una famiglia che comprende anche, diciamo, chi è impegnato in prima linea. E questo credo sia una marcia in più, diciamo, per tutti. Quindi anche voi avrete una serie di lettori che prendono i manoscritti, che li ricevono, che li guardano, ma l'ultima parola sul libro, visto si stampi, spetta al presidente o all'amministratore delegato. Sì, anche perché non essendo noi una casa editrice specializzata, se facciamo certamente libri nelle varie aree disciplinari in cui siamo presenti, la filosofia, la storia, l'archeologia, la sociologia, il diritto, eccetera, però sono libri che quasi sempre aspirano ad andare anche a un lettore colto, ma non tecnico, diciamo, non specialista. E allora il parere del competente è importante, ma poi è fondamentale il parere dell'editore, non necessariamente il mio, anche dell'editor, come si dice, cioè del mio collega, che però ha una sensibilità proprio alla divulgazione, alla capacità di comunicazione al pubblico. Quanti titoli fate all'anno adesso? Ma noi facciamo come novità circa 160-170 titoli e poi ne facciamo più del doppio, cioè 400 di reprint, cioè di catalogo. Ristampiamo ogni anno più di 400 libri, che per noi è fondamentale perché significa che, diciamo, il criterio per noi fondamentale di stampa di un libro di pubblicazione, che è la sua durata nel tempo, evidentemente funziona, evidentemente la casa editrice riesce a mantenere vivo il catalogo e questo per noi è molto importante. Beh, è un grosso impegno fare quasi un libro nuovo ogni due giorni. Come va il mercato del libro in Italia in questo periodo? Ma guardi, il mercato del libro in Italia in questo momento, come dire, è forse in sofferenza. Gennaio è stato febbraio sono stati mesi non facili, però devo dire relativamente meno forse di altri settori, forse anche perché negli ultimi 10 anni la situazione del mercato è stata sostanzialmente abbastanza stazionaria e quindi non c'è un contraccolpo come chi ha una crescita molto forte. Direi che è una situazione che gli addetti ai lavori guardano con qualche preoccupazione, ma non con pessimismo. Ecco, credo che ci siano anche molte energie che fanno pensare che il mercato possa tenere e forse anche recuperare negli anni prossimi. Sente con preoccupazione l'avanzare delle nuove tecnologie, di questi nuovi strumenti un po' diabolici in cui il libro viene dematerializzato, diventa uno schermo di un computer? Ma guardi, no, non devo dire che io non le avverto con preoccupazione, credo che anzi siano delle opportunità interessanti per gli editori e che quindi vanno sfruttate come tali. Sono un po' preoccupato da certa retorica, da certa enfasi, mi sembra, diciamo, eccessiva, che viene legata alle capacità, diciamo, palingenetiche di trasformazione radicale di tutta la nostra vita per una tavoletta che si chiama iPad. Mi pare un oggetto interessante, uno strumento, come dire, stimolante, ma francamente, diciamo, mi interessa di più cosa ci sarà dentro, cioè mi pare più interessante ragionare dei contenuti che delle forme. Ecco, del libro si potrebbe dire forse quello che Montanelli diceva di un giornale, non morirà mai perché solo con il giornale si riescono a uccidere le mosche. Quindi il libro, al di là dell'aneddoto appunto, è comunque qualcosa di vivo, che le generazioni forse come la nostra o quelle un po' precedenti forse vivono ancora come libro, ma le nuove generazioni leggono meno di prima. Ma guardi, le nuove generazioni in realtà leggono parecchio, leggono intanto molto su internet, quindi sono sempre testi, non dimentichiamo che alla fine leggono anche libri, mantengono un tasso di lettura abbastanza elevato, i successi in libreria negli ultimi anni sono, non so, Harry Potter è stato letto da ragazzi giovani, ma anche tutta la saga di Twilight, eccetera. le generazioni, Moccia in Italia è un autore che va per le giovani, quindi i giovani leggono più di quanto non si... Certo, vedono anche molto la televisione, soprattutto vanno su internet, diciamo sono multimediali, come si dice, e questo mi sembra un bene. Forse vedono il libro più come strumento di consumo che non come un patrimonio poi da difendere, da mettere a posto, da tenere in biblioteca. Sì, devo dirle che però, se diciamo così, tutti oggi vedono tutto come di consumo, no? Mi pare che siamo in una società in cui, come dice Bauman nell'ultimo libro che abbiamo pubblicato, si pone il problema di che cosa possa essere l'etica in un mondo di consumatori. Oggi noi, tutti noi, siamo visti e ci vediamo prima di tutto come consumatori, e questo forse è un problema più generale delle nuove generazioni. Si fa abbastanza in Italia per promuovere il libro, per promuovere la lettura, per promuovere l'approfondimento, la cultura in fondo? No, si fa pochissimo, soprattutto si abbandonano a se stesse le biblioteche civiche e le biblioteche scolastiche, che nei paesi civili sono perno della politica governativa. In Italia purtroppo da molto tempo non c'è attenzione, non c'è sensibilità al ruolo fondamentale che svolgono i bibliotecari, anche nella necessità che questi si trasformino, che si attivino, che siano luoghi di socialità, ma purtroppo questo è derivante dal fatto che la nostra classe dirigente ha scarsa dimestichezza con la cultura dei libri, non la ritiene fondamentale per il proprio arricchimento e la propria visione del mondo. Anche per il proprio consenso, forse il consenso nasce in questa società più da altri mezzi di comunicazione, possiamo parlare forse più della televisione che non degli altri strumenti come la stessa radio o i giornali o i libri, sono un po' messi da parte, quasi come dei fastidi. Non c'è dubbio, è così. D'altra parte, voglio dire, è una vecchia storia in Italia, i nostri governanti non hanno mai creduto veramente utile educare il popolo, non hanno mai investito nella scuola, hanno investito pochissimo nell'università e nella ricerca. Il risultato è che questo paese è cresciuto, certamente, ma è cresciuto con meno respiro di altri, con una visuale più corta. Oggi ce ne accorgiamo e paghiamo un prezzo molto alto quando arrivano i cinesi e ci mettono fuori il mercato con i loro prodotti. Non abbiamo un'alternativa, non abbiamo un'alternativa costruita sull'educazione, sulla formazione scientifica. E questo è un problema molto serio per l'economia italiana, che io vedo come strettamente legato anche al libro, all'investimento in cultura. Sì, è un problema in fondo di civiltà della realtà italiana. Ecco, ci stiamo avviando alla conclusione del nostro dialogo con Giuseppe La Terza, presidente della casa editrice La Terza. Vorrei chiederle se c'è qualche libro che è rimasto nel suo cassetto e che si è pentito di non aver pubblicato, o dei libri, o di un libro che ha pubblicato e che pensava che potesse avere un grande successo e che invece poi si è fermato sugli scaffali delle librerie. È difficile proporre un libro ai lettori? Ma guardi, ci sono tanti libri che ho pubblicato e che avrei voluto pubblicare con maggior successo e che non lo hanno avuto, anche se poi questo successo va misurato in tempi più lunghi. Magari un libro non vende subito, ma vende nel tempo. L'importante per un editore, almeno per noi, per La Terza, è credere che quello sia un buon libro. Io non pubblicherei un cattivo libro sapendo che vende. Questa è la differenza tra La Terza e altre case editrici più commerciali. Non mi è possibile pubblicare un brutto libro sapendo che è brutto. Certe volte, purtroppo, bisogna rinunciare anche a buoni libri se non hanno un mercato, e quindi bisogna stare su un crinale difficile, un crinale stretto. Però io credo che, diciamo, la vita di un libro appunto si misuri nel tempo, e che questo sia il fattore essenziale. E che anche l'immagine in fondo di una casa editrice si misura non solo dai numeri, ma anche, che sono pure importanti, ma anche dalla capacità di influenzare il dibattito politico, l'economia, la riflessione sui temi di fondo della società. Non c'è dubbio, la cosa essenziale è quella. Cioè, io credo che per un editore come La Terza, alla fine dell'anno, il bilancio economico è fondamentale, ma ancora più importante è il bilancio della qualità dei contenuti, di ciò che uno è riuscito a far passare in termini di maggiore comprensione più seria, più approfondita della realtà. Un'ultima domanda riguarda il Mezzogiorno, che è uno dei problemi, forse il problema più grosso dello sviluppo italiano. Come vede dal Mezzogiorno il Mezzogiorno? Ma il Mezzogiorno oggi è una realtà molto diversificata, è una realtà in cui, per esempio, la nostra regione, la Puglia, esprime delle energie molto forti anche in termini culturali. È una regione che ha avuto un rinascimento culturale per esempio nel teatro, nello spettacolo, nella musica. Quindi la vedo positivamente, credo che oggi il paese sia più unito per certi versi, più integrato dal punto di vista degli scambi. La Puglia è una delle regioni che da questo punto di vista credo dia un contributo molto forte. Quindi l'ottimismo della volontà deve continuare. Assolutamente. E con questa battuta io ringrazio Giuseppe Laterza, presidente della Laterza, che ci ha fatto compagnia questa mattina, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Ricordo ai nostri ascoltatori che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.